blog. Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Via Oreste, non è che un coniglio col panciotto e l'orologio. Può fare, può farissimo. È tardi, tardi, tardi. Questa sì che buffa. Perché mai dovrebbe essere tardi per un coniglio? Mi scusi, signore. Ma che? Ma che? Non aspettano che me. In ritardo sono già. Non mi posso trattenere. Deve essere qualcosa di importante, forse un ricevimento. Chi non ricorda il Bianconiglio, ma di quanti conigli è pieno l'immaginario della nostra infanzia, Fratel Coniglietto, Tippete il coniglio amico di Bambi, e poi andando avanti, passando naturalmente per il Bianconiglio, la guida di Alice nel Paese delle Meraviglie, Bugs Bunny e tutta un'infinità di altri conigli che ci hanno circondato l'immaginario fanciullesco. Sotto Natale ci sono i coniglietti ricoperti di stagnola d'oro della Lindt, fatti di cioccolata. Chi mai penserebbe di far del male a questi esseri così indifesi? Io giorni fa facevo una riflessione. Avevo assistito a una manifestazione, c'era stata a Milano, di animalisti, come ogni anno, implorano le persone di cessare la strage innocente degli agnelli che vengono arrostiti tradizionalmente per Pasqua. Io pensavo, dico, ma perché soltanto gli agnelli? Giusto, giustissimo, lecito, poi ognuno pensa come vuole, ma mi sembra che in fondo ci sono delle derive del costume che bisogna perlomeno guardare con attenzione, avere rispetto. Dico, ma un'infinità di altri animali a cortile ormai sono entrati nell'uso domestico e quotidiano, e uno di questi, avevo citato il maialino, dopo Peppa Pig, ma chi è più avrà il coraggio di dire a un bambino andiamoci a mangiare una porchetta, vede Peppa Pig infilata nel palo che gira sul girarrosto? Non è possibile una cosa del genere, e prendono un trauma irreversibile a un bambino. La stessa cosa pensavo ai conigli, perché vedo sempre di più acquistare conigli come animali da compagnia. Devo dire, ne ho avuto uno io un periodo, ma hanno venduto spacciandolo per coniglionalo, è diventato un coniglione da 2 kg, mi girava per casa, mi aveva mangiato tutti i fili di tutte le abat-jour, del telefono e via dicendo di casa, però gli volevamo molto bene, ci lasciava tante palline, perché il coniglio ha questo suo passatempo preferito, quando cammina per le stanze sui divani lascia, come Pollicino lasciava i sassolini con i suoi fratellini, una fila di palline nere, perché ha questa sua maniera di fare la cacca in palline e lasciarla in giro, questo è il suo hobby. Beh, infatti, proprio nella giornata di ieri ho letto la notizia di una proposta di legge che non è nemmeno tanto peregrina, perché è supportata al momento da oltre 10.000 firme, che vorrebbe restaurare al coniglio, ridare al coniglio, anzi dare al coniglio la dignità di animale da compagnia. Pare che sia il terzo animale da compagnia dopo cani e gatti, quindi ormai gli italiani sono abituati ad avere un coniglio in casa, quindi come possono pensare che quell'essere batuffoloso, tenero, richiuto che tengono per casa poi possa essere messo in padella con l'aglio, il peperoncino, il sale, l'olio, saltato, la cacciatora col pomodorino e via dicendo. È impossibile pensarlo. Quindi oggi di questo vorremmo riflettere, vorremmo avere un vostro contributo sul fatto. Siete d'accordo che possa passare una legge che infligga una pena fino a 2 anni di reclusione per chi mangia i conigli? Perché è molto articolata questa legge, prevede delle attenzioni molto dettagliate per i conigli. I conigli diventerebbero a tutti gli effetti come cani e gatti. Quindi non pensate più di andare al mercato e comprarvi un coniglio e già leccarvi i baffi di come potete cucinarlo. Il coniglio non si tocca. 800 24 00 24, salviamo Fratel Coniglietto. Sono in ritardo, in arci ritardissimo! Beh, è naturale che tu sia in ritardo. Questo cipollone è esattamente 2 giorni indietro. 2 giorni indietro? Certo che sei in ritardo. Grandi numi. Bisogna guardare dentro. Oh, oh, ecco cos'è che non va. Questo orologio ha troppe rotelle e vitarelle. Oh, il mio povero orologio! Le mie rotelle, le mie molle! 800 24 00 24, ve la sentireste di prendere l'impegno di non mangiarvi più conigli, di cominciare a considerarli animali da compagnia? Bisognerebbe mettere un microchip sottocutaneo da ciascun coniglio, perché abbia una sua dignità di riconoscibilità, una sua tracciabilità, e se vi si accendesse la lucina del chip, del microchip nella vostra pancia, vuol dire che avreste compiuto un reato passibile fino a 2 anni di carcerazione. Laura Brunello, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per questo spazio dedicato alla vostra causa. Animale, sì, sicuramente alla nostra causa. Allora, la presento, ancora... è coordinatrice nazionale della AAE Conigli, Associazione Animali Esotici Conigli, e penso sia una delle associazioni che sta lavorando a questa raccolta firme. Sì. Ma cosa volete in sintesi? Cosa vi proponete? Beh, sicuramente la collaborazione con la con l'onorevole Brambilla è dovuta proprio al fatto... L'ex ministro Michela Vittoria Brambilla si è fatta, diciamo, paladina di questa crociata. Esatto, quindi lascerei a lei e al suo staff i dettagli tecnici, perché ci vuole molta esperienza e molta competenza per capire quali sono le potenzialità di una proposta di questo tipo e riuscire anche a farla galleggiare in mezzo a tutti i contrasti e alle tensioni che l'argomento potrà portare. Noi possiamo solamente... Voi state raccogliendo le firme comunque... Facciamo una legge, quella sintesi, una legge per salvare i conigli dall'eccidio radicale totale. Sì, posso permettermi di commentare, al di là di quelle che possono essere le mie e le ideologie dell'associazione Animali Esotici, che si chiama... Ma perché il coniglio esotico? No, il coniglio è nostrano. Deriva dalla definizione exotic animal, che è inglese, che ha iniziato per prima a vivere e a diffondere il fenomeno del coniglio come animale da compagnia. Nella terminologia inglese sta come animale che viene da fuori, perché non è autoctono. Nel nostro caso è un animale allevato apposta per essere venduto. Siccome tutti i testi che sono presenti in Italia che trattano di questa materia sono di provenienza non italiana, appunto, diciamo che è stata una traduzione letterale che poi noi abbiamo mantenuto, proprio perché l'associazione nasce più di 15-20 anni fa e deve cercare di rompere un muro di silenzio e di ignoranza, chiaramente con tutto il rispetto nel significato latino del termine ignorante, dove anche le più elementari informazioni su questo animale ancora mancavano. Cioè, diciamo, noi abbiamo poco tempo, ora a riempire. Io ho letto, diciamo, alcuni dettagli di quella che dovrebbe essere ancora un abbozzo, non esiste nulla di ufficiale, però si prescrive che il coniglio, se tenuto in casa, deve avere comunque un abitacolo adeguato alle sue esigenze, 1 m x 70 cm, con una casetta, con i tubicini per giocare, con la possibilità di uscire e passeggiare per alcuni tempo. Sì, in pratica la nostra, se mi concede il commento generale, è intanto una risposta ad un fenomeno che già esiste, quindi per chi volesse anche commentare questa idea un po' anacronistica, diciamo, rispetto all'immaginario collettivo, vorrei ricordare che il coniglio è a tutt'oggi il terzo animale da compagnia presente nelle case degli italiani. Sì, l'ho detto poco fa, infatti, sì. Il fatto che non sia conosciuta questa realtà è proprio perché sono animali che il 90% dei casi vivono o come soprammobili, o chiusi nelle gabbie, o nei balconi, o vengono scambiati per l'albero in giardino. Cosa significa questo? Che o lo riteniamo un animale da compagnia e lo rispettiamo in quanto tale, quindi se è nei negozi, se entra nel commercio, entra come animale da compagnia, però che venga venduto come animale da compagnia e commerciato in quanto tale, poi faccia la fine di un animale chiuso in gabbia che passa segregata tutta la sua vita, noi li riteniamo che hanno piaghe da decubito, sono vissuti in gabbia, cioè è un contrasto che in questo momento... Sì, però solo per capire, visto che c'è una fiorente industria dell'allevamento e trattamento alimentare dei conigli, si parla di tutti i conigli o c'è una distinzione di rango? Scusi la crudezza. Per quanto riguarda noi non c'è nessuna distinzione. Quindi anche il coniglio che allevano, diciamo, nelle campagne, che ogni tanto tirano fuori, gli danno una botta in testa e se lo mangiano. Chiaro che almeno si lo stesso iter che è avvenuto per il cavallo, cioè purtroppo bisogna... Però i cavalli se li mangiano ancora. Esatto, però quelli microchippati, riconosciuti come animali da compagnia, fanno un iter, quelli purtroppo destinati a diventare carne da macello ne fanno un altro, non perché sia la nostra volontà. Penso di sposare... Intanto ne salvate una parte, diciamo, chi si mangia... che bisogna iniziare un percorso con una logistica, perché se noi pretendessimo che da domani non si mangiasse più carne, questo per rispondere all'incipit che voi avete dato all'intervista, cioè perché l'agnello sì, il coniglio no, non è che la facciamo noi questa distinzione, è che purtroppo non c'è un modo per affrontare il tema in maniera radicale, bisogna affrontarlo volta per volta, trovare una risposta concreta, perché il Parlamento ci chiede di proporre delle cose che siano attuabili. Allora, se noi dicessimo da domani non si mangia più carne, siamo tutti vegani, probabilmente non ci ascolterebbe nessuno. Non ci ascoltano neanche facendo questa proposta, però almeno si tenta di fare una proposta che sia valutabile, che sia concretizzabile, che sia attuabile, e purtroppo bisogna rimanere... Solo una domanda tecnica, siccome anch'io ho avuto un coniglio, Ma come si ovvia al coniglio e alla compagnia il fatto che lasci tutte quelle palline in giro quando passeggia per la casa? Lo si sterilizza, gli si dà una compagna. No, le palline, diciamo, fa la cacca a palline il coniglio. Sì, sì, sì, la fa nella lettiera, se è sterilizzato. Può essere abituato a farla nella lettiera. Può essere abituato, soprattutto essendo una preda, per lui lasciare i suoi odori è una cosa che è valutata con molta attenzione, per cui se dove lei mette la lettiera per lui è un luogo pericoloso, non gliela farà mai. Quindi se si dà la coniglietta al coniglio non fa più la cacca in giro, questo è importante. Andrea. Della gestione corretta del coniglio come animale da compagnia. Però dopo si accoppia come un coniglio, come ha detto anche il Papa, non vi accoppiate, sì, come un coniglio. Anche se sterilizzato continua ad accoppiarsi. Ah, beh, si diverte. Sicuramente è un animale socievole, gregario. È un animale intelligente, quindi non è solo finalizzato alla procreazione, ma anche al piacere. Come tutti gli animali, se gli si dà la possibilità di esprimersi. Certo che se noi pretendiamo di apprezzare la sua intelligenza tenendolo chiuso in gabbia o sbattendolo fuori in giardino e lo vediamo solo una volta l'anno, difficilmente ne apprezzeremo. Sentiamo qualche ascoltatore, scusi Laura Brunello, un istante. Andrea, buongiorno. Buongiorno a lei. Il suo punto di vista, smetterà di mangiare conigli? Assolutamente no, e che ne dicano animalisti e animalari. Animalari. Il concetto vede è questo, sono animalari. Ognuno ha le sue opinioni, io le rispetto. Questa è la mia opinione, la prego di rispettarla. Io figuriamoci. Mi occupo. Io mangerò, continuerò a mangiare coniglio, lo dico apertamente, non ho nessun problema. Mi piace molto la cacciatore, è buonissimo. Quindi... Tantissimo, parecchio, sì. Però uno può, ha diritto di esprimere un suo punto di vista, se per loro esatto, è pensato... Il concetto è proprio questo, vede, ognuno ha il diritto di esprimere il proprio concetto, il proprio punto di vista nella tutela dell'animale, sia esso coniglio, agnellino, cagnolino, gattino e quant'altro vogliamo metterci. Il problema è che in questo caso non si tratta di opinioni, si tratta di promulgare leggi che vanno poi a condizionare quello che sarà poi il comportamento anche delle persone che ancora, non ancora grazie a Dio le leggi devono essere approvate dal Parlamento, quindi non no, è detto. No, la signora, no, mi perdoni, la signora Brambilla, che ovviamente ha tantissime cose da fare nella sua vita, continua nella sua ricerca di promulgare leggi che vanno in qualche modo poi a ledere quelle che sono le intenzioni o i diritti di persone che non hanno animali d'affezione. Perché i cani sono presenti in 7 milioni di famiglie in Italia, non nella totalità. I gatti la stessa cosa, il coniglietto che tutte le famiglie adorano e non trattano tutto il coniglietto come sta dicendo la signora che è in studio con voi, i coniglietti non sono trattati tutti così, spieghi a quella signora, hanno il diritto evidentemente di trattarlo, di averlo, di coccolarlo e quant'altro, però ci sono anche... il resto della popolazione italiana che forse vorrebbe mantenere il loro sacrosanto diritto di mangiarselo il coniglio in alcune occasioni. Ma mi sembra questo nessuno diventerà oggetto, se diventerà, forse sono cose in agenda lievemente più impellenti, però intanto è un moto di costume che mi sembra doveroso registrare. Se avviene che qualcuno pensa di poter fare una battaglia per difendere i conigli come animali da compagnia, sono derive dell'atteggiamento generale che io da giornalista mi sento di dover registrare, non far finta che non ci sono. Poi è chiaro, ognuno continua a fare quello che vuole nell'ambito e nel rispetto delle leggi vigenti. Ancora nessuna legge impedisce di mangiare il coniglio. Ci fermiamo un istante per il traffico. Melog, cronache meridiane. Compiuto un gesto sacrilego perché ho osato dar voce a delle persone che ritengono nelle loro convinzioni, che sono rispettabili, dover salvaguardare con un microchip i conigli che sono animali da compagnia evitando che la gente se li mangi, e si parla di una legge che sanzioni in maniera anche pesante chi contravverrà a questa regola. Mi scrivono degli ascoltatori dandomi naturalmente dei consigli, c'è un'ascoltatrice in particolare che mi consiglia di usare sempre foglie d'alloro perché smorzano e profumano le carni, sempre comunque dopo una precedente marinatura con aceto e vino bianco. Altri mi dicono che sono impazzito perché dice pianta a dire cazzate, la carne coniglio è buonissima, fa molto bene alla salute, così anche l'agnello, il cavallo e quant'altro, per piacere, sono tutte cazzate. Beh, però ammesso anche che per il punto di vista di chi scrive siano cazzate, ascoltare altri punti di vista secondo me arricchisce il proprio giudizio, il senso di quello che si fa. Marco, buongiorno. Buongiorno. Sento, no, io volevo soltanto parlare, premetto che sono nel rispetto degli animali e del loro ruolo che ognuno ha. Volevo ricordare, non so se qualcuno lo sa, che nel secolo scorso l'Australia ha avuto un'invasione di conigli per cui non sapevano come fare per liberarsene e hanno dovuto fare un'infezione generalizzata con la malattia classica, il virus classico dei conigli che è la mixomatosi, per poter eliminare, per poter disfarsi di un numero elevato, perché avevano praticamente invaso a... Lei è un veterinario, immagino. Sì, sono veterinario. Ecco, ma come può accadere, diciamo, che perché non se li mangiavano più, perché sono stati invasi dai conigli australiani? Perché avevano l'ambiente dell'Australia, ambiente ideale per la riproduzione, e quindi sono stati lasciati liberi di riprodursi in condizioni naturali, e questo ha provocato una... E non se li mangiavano gli australiani i conigli? Ma probabilmente qualcuno sì, però... Ma non bastavano? Esattamente, il numero delle fattrici era molto elevato, e per cui era esponenzialmente... La riproduzione è elevatissima. E rischiavano di far scomparire i canguri, probabilmente. Esatto, l'unico modo per eliminarli è stato infettarli con il virus, per cui puoi immaginare che tipo di contraddizione andiamo incontro quando viene a mancare, secondo me, l'equilibrio e il buon senso che secondo me... Lei che è veterinario, ha mai avuto in cura conigli domestici, cioè che tengono in casa? No, io per la verità mi occupo di vacche da latte, anche questi hanno tutta una problematica loro. Sì, e anche quelle fanno il latte, ma... Conigli domestici, esatto. Hanno anche loro un destino, che non è certo quello di andare allo spizio delle mucche. Di fare servizio all'umanità, di fornire derrate alimentari in varie misure. Laura Brunello, ricordo dell'associazione che raccoglie le firme per la difesa del coniglio. Posso fare un commento? Stiamo parlando di quattro cose contemporaneamente, un contro, anche i gatti sono in eccesso, anche i cani, questo non significa che uno li debba mangiare, cioè secondo me stiamo uscendo dal tema e facendo una cozzaglia di argomenti. Secondo lei non è possibile un'invasione dei conigli in Italia? Ma se è possibile o no, non è questa la pertinenza, perché se tutto viene giustificato con il fatto che dobbiamo mangiarci quello che è in eccesso, andiamo nel far west, diventiamo obesi, diventiamo... Cioè, noi stiamo parlando di cose completamente diverse, ci sono mille disequilibri nella natura, questo non significa che ci andiamo ad eliminare tutto quello che ci dà fastidio. Quindi il fatto che se un animale da compagnia comporterebbe la sterilizzazione, la microcepatura obbligherebbe al divieto di abbandono di questi animali, quindi a una riproduzione non gestita, e quindi è chiaro che come non abbiamo una sovrappopolazione di cani solo perché non li mangiamo, non avremo una sovrappopolazione di conigli solo perché non ce li mangiamo. Cioè, mi sembra che stiamo... Io penso la cosa più difficile sia però convincere gli allevatori di conigli che in realtà non devono più allevare conigli a fine alimentare. Non dovremmo convincerli, anche perché ribadisco, se proprio non vogliamo arrivare a questa estrema soluzione, che io gradirei moltissimo, ribadisco quello che è stato detto per cani e gatti, cioè il fatto di disciplinare un settore non significa eliminarlo. Voi cominciate intanto a disciplinare il settore, diciamo, dei conigli più batuffolosi, quelli da appartamento, così intanto passa al principio che il coniglio è un animale comunque non proprio assimilabile ad animali solo per fare... Sicuramente, se non vogliamo entrare nel merito delle obiezioni che hanno fatto i vostri ospiti, direi che, ribadisco, o nel momento in cui vengono inseriti come animali da compagnia vengono disciplinati, e quindi non quella cozzaglia di gestione che stiamo vivendo. Cioè uno non può cambiare idea, che a un certo punto, quando i bambini non vogliono più giocare col coniglio, come accade con i cani e i gatti, la mamma dice lo mettiamo in padella così è finita. Esatto, non si può. Quindi voglio dire, se si decide che questo commercio deve continuare, va gestito nel rispetto dell'etica della persona e dell'uomo, così come avviene per altri animali da compagnia. Anche perché, signor, le dico, io nella mia esperienza di anni fa, a me mi truffarono, mi hanno venduto un coniglio non certo d'appartamento, hanno detto un coniglio nano, è diventato un coniglione di quelli proprio d'allevamento, quindi va anche disciplinato nella qualità dei conigli e che vengono definiti come conigli d'allevamento. Alex, buongiorno. Buongiorno, premetto che sono assolutamente d'accordo sulla necessità di disciplinare in questo campo, scindendo fra animali da compagnia e non. Ma col coniglio lei come la mette? Lei se lo mangia? Io lo mangio, ma ne ho anche avuti da compagnia, sia testa di leone. Ecco, come fa a coincidere un po' questa cosa? Io il periodo che ho avuto il coniglio in casa, chiaramente non mangiavo coniglio, mi sembrava far vedere al coniglio che c'è un altro coniglio, suo parente, sulla tavola, e lui sta lì sotto che cammina, è brutto. Un po' di... lei continua a mangiare conigli pur avendo conigli in casa da... Pur avendoli avuti, sì, perché... Beh, lei è molto crudele però, scusi. No, non era una... Lei pensa al coniglietto da compagnia che passeggia carino per la cucina, sente il profumo del suo fratellino cotto con l'aglietto. Abitavo allora in campagna, in Toscana, ed era abbastanza naturale avere questi due aspetti che si condevano. Da una parte i conigli che venivano mangiati e tenuti proprio per questa funzione, e alcuni da compagnia, appunto una testa di leone e una testa d'ariete, che erano invece in casa. Perché quello che volevo dire... Ma quelli da compagnia passavano mai in padella, no? Assolutamente no. Assolutamente no, ma infatti sicuramente va regolamentato questo genere di possesso, sono d'accordo. Quello che ci tenevo a dire però è che è importante, c'è stato un po' uno snaturare e un trasformare in uomo, un umanizzare spesso gli animali. Il suo esempio della Peppa Pig è stato molto, secondo me, calzante, e questo io credo sia male. Disney ne è colpevole, e anche Peppa Pig e altri, perché Certo, un bambino oggi, spiegare a un bambino che in realtà la cotoletta che lui vede viene da Peppa Pig è un po' difficile, perché Peppa Pig è diventato l'elemento costante di tutti i pomeriggi. Loredana, buongiorno. Buongiorno. Allora, dottor Nicoletti, io volevo dire questo. Io sono ambientalista, animalista, cioè amo la natura in generale, e però, dico la verità, non sono vegetariana. Quindi il coniglio lo ama anche amo, sì, ben cucinato. Ne mangio tantissima di carne, però diciamo, essendo stata abituata da piccola, come dire, faccio fatica a rinunciarci completamente. Quello che volevo dire, sia per i conigli, ma per tutti gli animali in generale che noi mangiamo, è che capisco, siamo onnivori e quindi può succedere di mangiarli, ma almeno io vorrei che fossero trattati bene quando sono in vita. Quindi niente allevamenti di polli come vediamo in televisione, niente allevamenti di maiali, di mucche, che nascono e non hanno neanche il diritto di muoversi. Gli animali vanno rispettati e uccisi senza dolore. Però comunque il risultato rimane quello, è una posizione giusta la sua, equilibrata, è tollerante mi sembra, però lei dice sì, alla fine non cambio le mie abitudini. Qua si parla di una proposta di cambiare radicalmente le proprie abitudini, cominciare a considerare il coniglio come un animale. Oggi nessuno smetterebbe un gatto in padella, un cane in padella, perlomeno nel nostro occidente civilizzato, anche se è stato fatto anche nelle nostre regioni, anche in tempi passati, in tempi difficili. Oggi si comincia a riflettere quando si vede nel menù del ristorante coniglio alla cacciatura, che forse quel coniglietto potrebbe avere un'anima e quindi merita rispetto. A domani.